Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti, questa volta cambio i saluti. Prima lo dico a coloro i quali ci ascoltano in replica alle 20.45, buona serata, e poi do il buongiorno a chi invece di prima mattina alle 6.45 ci ascolta. Chi vi parla è Roberto Galullo, la mail ormai la conoscete, ma io la ripeto sempre, unabusoalgiorno@radio24.it, così come ripeto sempre il blog che ho sulla prima pagina del Sole 24 Ore online, si chiama Guardie o Ladri. Allora, cari radioascoltatori, vi ricorderete che alcune settimane fa Radio 24, devo dire per prima tra le emittenti e tra i media nazionali, riportò una notizia che era stata, non dico nascosta, ma riservata solo nelle pagine della cronaca e delle cronache che arrivavano dalle Friuli Venezia Giulia, segnatamente da Trieste. Che cosa è accaduto? È accaduto che un senatore del PDL, del Popolo delle Libertà, il senatore Ferruccio Saro, aveva scoperto quasi casualmente che presso un nocciolo duro, diciamo così, di sette forestali, perché poi era un gruppo di sette forestali, esisteva un centro d'ascolto, diciamo in termini un pochettino più volgari e popolari, esisteva un centro attraverso il quale si potevano fare delle intercettazioni ambientali, quindi intercettare le persone. Scandalo, bufera. Io ricordo anche che di questa cosa ne ho trattato sul mio blog, quindi chi vuole può andarsi a leggere ciò che scrissi all'epoca. La cosa è o non è legittima? In realtà non si capisce bene, perché dopo la denuncia dell'onorevole Saro qualcosa effettivamente è accaduto. È accaduto che non soltanto lui ha presentato una interrogazione al ministro della giustizia Angelino Alfano, ma è successo anche che l'avvocatura regionale interna presieduta dal dottor Bevilacqua ha risposto ai sospetti di Saro. E noi, per capirne di più, abbiamo nuovamente gradito ospite il senatore Ferruccio Saro. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, che cosa ha detto in sintesi l'avvocatura in questa nota che è stata spedita alla giunta presieduta da Renzo Tondo? Sostanzialmente ha detto molte cose. Io il documento esattamente non l'ho avuto ancora a disposizione, però mi è stato riferito sono stati riferiti alcuni dei contenuti del documento. Per procedere a fare queste intercettazioni, dice l'avvocatura della regione, era necessario, pur se c'era un mandato della Procura della Repubblica o di qualche PM, c'era la necessità di che questo centro venisse autorizzato da parte dell'amministrazione regionale, e di questo non esiste autorizzazione, quindi non esiste traccia. Dunque non esiste traccia di un'autorizzazione interna alla regione, quindi questo è un fatto che l'avvocatura dice essere molto grave, perché non è che si può in una struttura regionale mettersi a fare registrazioni senza l'autorizzazione. Certo. Che il personale doveva essere autorizzato a ciò, e non esiste nemmeno anche in questo caso l'autorizzazione. Sostengono molte altre cose in questo documento gli avvocati della regione. Ecco, per esempio, quindi dicono che c'è una sentenza e c'è la legge regionale che impedisce che i forestali possano andare a fare indagini fuori dal territorio regionale, mentre risulta da questo documento che sono andati a fare indagini sia in Italia che all'estero. Addirittura? Sì, sono andati in Italia, riportano sempre su questo documento, a fare una perquisizione, mi pare, nel Lazio, in una famiglia, e si sono beccati anche una denuncia per sequestro di persona. Viene da ridere. Viene da ridere se non ci fosse da piangere. Senatore, quindi riassumendo un secondo, noi ricordiamo che teoricamente, anzi no, diciamola tutta, in pratica le autorizzazioni arrivavano dai PM, però mancava l'autorizzazione madre di tutte le autorizzazioni, cioè quella della regione Friuli Venezia Giulia, che tra l'altro, ricordiamola, è a statuto speciale, certo, che avrebbe dovuto dire ci sta bene, non ci sta bene. Io volgarizzo, ovviamente. Sì, questo corrisponde, al vero. Giustamente, io neanche non lo sapevo che c'era la necessità di un'autorizzazione interna, e sta di fatto che certo. La regione dice che non c'era l'autorizzazione. Esatto, quindi si parla di Genchi, di altri, sì, di altre sì. persone, ma in realtà poi si scoprono queste cose di cui, ripeto, soltanto recentemente, il Corriere della Sera alcuni giorni fa si è interessato con un pezzo, ma che era stato fino a quel momento relegato soltanto nelle pagine del Piccolo di Trieste, del Messaggero Veneto, e invece Radio 24 già diverse settimane fa ne aveva parlato e torna a farlo. Senatore, le risulta che il ministro al quale lei ha rivolto questa interrogazione abbia già mandato degli ispettori? Ma da quello che mi è stato riferito, avrebbe attivato la Procura della Repubblica di Trieste ad acquisire tutti gli elementi per dare una risposta alle tre interrogazioni che ho presentato, quindi c'è già stato l'intervento romano per acquisire tutti gli elementi. Poi non so se il passaggio avviene attraverso il controllo, attraverso la procura, oppure se questa è una fase preliminare per poi mandare, per acquisire degli elementi e poi mandare gli ispettori. Certo. Ecco, di lei, senatore, che qualche giornale, ricordo il Piccolo di Trieste, la definiva come una vecchia volpe politica, è in dubbio la trasparenza e la indipendenza di giudizio, e quindi so che faccio la domanda giusta alla persona giusta, e la domanda è questa. Il governatore Renzo Tondo ha detto: ma in un paese in cui tutti vengono intercettati, milioni di italiani, da Lampedusa a Merano, c'è da aspettarsi di tutto. Però l'assessore alle politiche agricole, il leghista Claudio Violino, della sua coalizione, della coalizione del Partito delle Libertà, e quindi è in giunta con il governatore Renzo Tondo, che prima aveva detto: beh sì, effettivamente bisogna un po' guardarci dentro questa storia, adesso comincia ad essere un po' più prudente. Allora le domando, c'è anche, come dire, la paura da parte di una certa parte della politica di quello che lei ha tirato fuori, senatore? Ma guardi, sempre in quella relazione lì dell'ufficio legale si dice che la prima relazione della direzione dell'agricoltura e delle foreste su questa questione non corrisponde al vero. E io sto ponendo tutta una serie di interrogativi, no? Sul chiaramente per gli elementi che ho saputo, conosciuto, insomma, che in effetti abbiano esondato queste. Avete toccato un nervo sensibilissimo. E vedo che c'è un certo timore un po' da parte di tutti, no? Come se tutti pensano di essere stati intercettati. Ma io le faccio una domanda che faccio sempre a quelli che sono, agli interlocutori che sono miei ospiti: ma se lei, senatore, fosse intercettato, le interesserebbe qualcosa? Ma no, guarda. Oh, benissimo. Guardi, io sono molto attento quando parlo al telefono, quindi non ho nessuna paura, mi possono intercettare. È quello che dico anch'io, ma io, a differenza, devo dire che proprio non ci faccio proprio caso, perché tanto da nascondere non ho nulla. Però quindi succede, c'è la sensazione che se uno ha la paura di essere stato intercettato, a quel punto lì gli scatta un atteggiamento di grande preoccupazione, che magari fa anche insospettire chi è dall'altra parte del telefono. Ecco, le volevo chiedere questo: ma in Italia spesso le interrogazioni parlamentari, risposta scritta o risposta orale, vanno alle calende greche. A me questa sembra francamente una cosa abbastanza interessante, cioè urgente. Il ministro Angelino Alfano ha dato segni di vita oppure è indaffarato? Io ho avuto occasione di parlare con lui un 15 giorni fa, mi ha detto che cercava di acquisire tutti gli elementi e darmi una risposta più celermente possibile. Tra l'altro, se lei legge i giornali locali, le dichiarazioni anche del procuratore della Repubblica di Udine, dice che ha avviato anche indagini, perché obiettivamente lettera dell'ufficio legale fa emergere che ci sono stati commessi una serie di reati, no? Assolutamente, di vario genere. Assolutamente. Quindi chiaramente a questo punto qualcuno dovrà in qualche modo appurare la legittimità degli atti. Certo, no? certo, ma infatti noi di Radio 24 siamo qui per continuare a seguire con lei questa vicenda. Ricordiamo che il procuratore capo della Repubblica di Udine, che ha aperto i fascicoli, si chiama Antonio Biancardi. Io per il momento interrompo qui la nostra chiacchierata. La ringrazio, senatore Saro. Ci sentiremo ancora, sicuramente. Dico grazie in regia Valeria Bernardi e in studio a Laura Faggin, senza il cui aiuto questa trasmissione non sarebbe possibile, e dico ai radioascoltatori che ci sentiremo domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.